Canto 29 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 29. La molta gente e le diverse piaghe avean le luci mie sì inebriate che dello stare a piangere eran vaghe. Ma Virgilio mi disse: «Che pur guate? Perché la vista tua pur si soffolge laggiù tra l'ombre triste smozzicate? Tu non hai fatto sì all'altre bolge. Pensa, se tu annoverarle credi, che miglia 22 la valle volge, e già la luna è sotto i nostri piedi, lo tempo è poco mai che n'è concesso, ed altro è da veder che tu non credi. Se tu avessi, rispos'io appresso, atteso la cagion per ch'io guardava, forse m'avresti ancor lo star dimesso. Parte sen gia, ed io retro gli andava, lo duca già facendo la risposta e soggiungendo: dentro a quella cava, dov'io teneva gli occhi sì apposta, credo ch'un spirito del mio sangue pianga la colpa che laggiù cotanto costa. Allor disse il maestro: non si franga lo tuo pensier da qui innanzi, sovrello, attendi ad altro, ed ei là si rimanga, ch'io vidi lui a piè del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito, ed udì nominar Geri del Bello. Tu eri allor sì del tutto impedito sovra colui che già tenne altaforte, che non guardasti in là, sì fu partito. O duca mio, la violenta morte che non gli è vendicata ancor, diss'io, per alcun che dell'onta sia consorte, fece lui disdegnoso. Onde sen gio senza parlarmi, sì com'io stimo, ed in ciò m'ha il fatto a sé più pio. Così parlammo insino al luogo primo, che dello scoglio l'altra valle mostra, se più lume vi fosse, tutto adimo. Quando noi fummo in sull'ultima chiostra di Malebolge, sì che i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, lamenti settarum me diversi che di pietà ferrati avean gli strali, ond'io gli orecchi con le man copersi. Qual dolor fora se degli spedali di Valdichiana, tra luglio e settembre e di Maremma e di Sardegna i mali, fossero in una fossa tutti in sembre, tal era quivi e tal puzzo n'usciva qual suol venir dalle marcite membre. Noi discendemmo in sull'ultima riva del lungo scoglio pur da man sinistra, e allor fu la mia vista più viva giù ver lo fondo, dove la ministra dell'alto sire infallibil giustizia punisce falsator che qui registra. Non credo che a veder maggior tristizia fosse in Egina al popolo tutto infermo, quando fu l'aere si pien di malizia che gli animali infino al picciol vermo cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorar di semi di formiche, che era veder per quella oscura valle languir gli spirti per diverse biche. Qual sovra il ventre e qual sovra le spalle l'un dell'altro giacea, e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam senza sermone, guardando ed ascoltando gli ammalati che non potean levar le lor persone. Io vidi duo sedere a sé poggiati, come a scaldar s'appoggia teghia a teghia dal capo a piè di schianze maculati, e non vidi giammai menare streghia da ragazzo aspettato dal signorso, né da colui che mal volentier degghia, come ciascun menava spesso il morso dell'unghie sovra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso. E si traevan giù l'unghie la scabbia, come coltel di scardova le scaglie, o d'altro pesce che più larghe l'abbia. O tu, che con le dita ti dismaglie, cominciò il duca mio a un di loro, e che fai d'esse talvolta tanaglie, dinne s'alcun latino è tra costoro che son qui in centro, se l'unghia ti basti eternalmente a cotesto lavoro. Latin sem noi che tu vedi si guasti. Qui amendue, rispose l'un piangendo, ma tu chi sei che di noi dimandasti? E il duca disse, io son un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo, e di mostrar l'inferno a lui intendo. Allor si ruppe lo comun rincalzo, e tremando ciascuno a me si volse con altri che l'udiron di rimbalzo. Lo buon maestro a me tutto s'accolse dicendo, di allor ciò che tu vuoli, ed io incominciai poscia che volse. Se la vostra memoria non s'imboli nel primo mondo dall'umane menti, ma s'ella viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete e di che genti. La vostra sconcia e fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi. Io fui d'Arezzo e d'albero da Siena, rispose l'un, mi fe mettere al fuoco, ma quel perch'io morì qui non mi mena. Ver è ch'io dissi a lui parlando a giuoco, io mi saprei levar per l'aere a volo. E quei, ch'avea vaghezza e senno poco, volle ch'i dimostrassi l'arte, e, solo per chi non feci Dedalo, mi fece ardere a tal che l'avea per figliuolo. Ma nell'ultima volgia delle 10, me per l'alchimia che nel mondo usai, dannò Minos, a cui fallir non lece. Ed io dissi al poeta, or fu giammai gente si vana come la Sanese? Certo non la Francesca sì d'assai. Onde l'altro lebroso che m'intese rispose al detto mio, tranne lo Stricca che seppe far le temperate spese. E Niccolò, che la costuma ricca del garofano prima di scoperse nell'orto, dove tal seme s'appicca, e tranne la brigata in che disperse caccia d'asciano la vigna, e la fronda, e l'abbagliato suo senno proferse. Ma perché sappi chi si ti seconda contro i sanesi, aguzza ver me l'occhio, sì che la faccia mia ben ti risponda. Si vedrai ch'io son l'ombra di capocchio, che falsai li metalli con alchimia, e tendei ricordar, se ben t'adocchio, com'io fui di natura buona scimia. Fine del canto 29.